Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margherita Yourcenar. Confesso che la ragione si smarrisce di fronte al prodigio dell'amore, strana ossessione che fa sì che questa stessa carne della quale ci curiamo tanto poco, quando costituisce il nostro corpo preoccupandoci unicamente di lavarla, di nutrirla e, fin dov'è possibile, di impedirle che soffra, possa ispirarci una così travolgente sete di carezze sol perché è animata da una individualità diversa dalla nostra e perché è dotata più o meno di certi attributi di bellezza sui quali, del resto, anche i giudici migliori sono discordi. Di fronte all'amore, la logica umana è impotente, come in presenza delle rivelazioni dei misteri. Ah, avvinto al corpo amato come un crocifisso alla sua croce, ho appreso sulla vita segreti che ormai si dileguano nei ricordi, per opera di quella stessa legge che impone al convalescente guarito di dimenticare le verità misteriose del suo male, al prigioniero una volta libero di obliare la tortura e al trionfatore la gloria quando l'ebbrezza del trionfo è svanita. A volte ho sognato di elaborare un sistema di conoscenza umana basato sull'erotica. Una teoria del contatto nella quale il mistero e la dignità altrui consisterebbero appunto nell'offrire al nostro io questo punto di riferimento d'un mondo diverso. In questa filosofia la voluttà rappresenterebbe una forma più completa, ma anche più caratterizzata dei contatti con l'altro, una tecnica in più messa al servizio della conoscenza del non io. Anche nei rapporti più alieni dai sensi, l'emozione sorge o si attua proprio nel contatto. La mano ripugnante di quella vecchia che mi sottopone una supplica, la fronte madida di mio padre nei suoi ultimi istanti, la piaga detersa di un ferito, persino i rapporti più intellettuali o più anodini si istituiscono attraverso questo sistema di segnali del corpo. Se un essere solo, anziché ispirarci tutt'al più irritazione, piacere o noia, ci insegue come una musica e ci tormenta come un problema, se trascorre dagli estremi confini al centro del nostro universo e infine ci diviene più indispensabile che noi stessi, ecco verificarsi il prodigio sorprendente, nel quale ravviso ben più uno sconfinamento dello spirito nella carne che un mero divertimento di quest'ultima. Opinioni come queste sull'amore possono indurre a una carriera di seduttore. Se non l'ho seguita, senza dubbio dipende dal fatto che mi sono dedicato a cose diverse, se non migliori. Una carriera del genere in mancanza d'estro richiede una serie di attenzioni, persino di stratagemmi per i quali non mi sentivo portato. Tendere insidie sempre uguali, percorrere la solita strada che si limita a perpetui approcci e alla quale la conquista segna il traguardo, son cose che mi hanno tediato. La tecnica del vero seduttore esige, nel passaggio da un soggetto a un altro, una disinvoltura, un'indifferenza che io non provo e che comunque perdevo prima di abbandonarle intenzionalmente. Non ho mai compreso come si possa essere sazio di un essere umano. La molteplicità delle conquiste contrasta con il desiderio di enumerare esattamente le ricchezze che ogni nuovo amore ci reca, di osservarlo mentre si trasforma, forse anche mentre invecchia. Thank you. di tutti i piaceri che lentamente mi abbandonano, uno dei più preziosi e più comuni al tempo stesso è il sonno. Chi dorme poco o male, sostenuto da molti guanciali, ha tutto l'agio per meditare su questa voluttà particolare. Ammetto che il sonno perfetto è quasi necessariamente un'appendice dell'amore, come un riposo riverberato, riflesso in due corpi. Ma qui mi interessa quel particolare mistero del sonno, goduto per se stesso, quel tuffo inevitabile nel quale l'uomo, ignudo, solo, inerme, s'avventura ogni sera in un oceano nel quale ogni cosa muta, i colori, la densità delle cose, persino il ritmo del respiro, un oceano nel quale ci vengono incontro i morti. Nel sonno una cosa ci rassicura, ed è il fatto di uscirne, e di uscirne immutati, dato che una proibizione bizzarra ci impedisce di riportare con noi il residuo esatto dei nostri sogni. Ci rassicura altresì il fatto che il sonno ci guarisce dalla stanchezza, ma ce ne guarisce temporaneamente, e mediante il procedimento più radicale, riuscendo a fare che non siamo più. Evoco i sonni repentini sulla nuda terra, nella foresta, dopo estenuanti battute di caccia. Mi destava l'abbaiare dei cani o le loro zampe ritte sul mio petto. Era un'eclissi così totale che ogni volta avrei potuto ridestarmi diverso e mi sorprendevo, mi dolevo a volte della disposizione rigorosa che mi riconduceva da così lontano nell'angusta particella di umanità che è la mia. In che cosa consistono le caratteristiche alle quali torniamo di più, se contano così poco per chi dorme, e se per un istante, prima di rientrare di malavoglia nel mio guscio di Adriano, giungevo ad assaporare quasi coscientemente quell'uomo vuoto di sé, quell'esistenza senza passato. Ma ci occupiamo tanto poco di un fenomeno che assorbe almeno un terzo dell'esistenza di ognuno di noi, perché è necessaria una certa dose di modestia per apprezzarne i doni. Caio Caligola e Aristide il Giusto si equivalgono nel sonno. Io depongo i miei vani e pomposi privilegi, non mi distingo più dal guardiano negro che dorme di traverso davanti alla mia porta. Che cos'è l'insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri, ragionamenti, sillogismi e definizioni tutte sue, il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni? L'uomo che non dorme, da qualche mese a questa parte ho fin troppe occasioni di constatarlo su me stesso, si rifiuta più o meno consapevolmente di affidarsi al flusso delle cose. Fratello della morte, si ingannava Isocrate, e la sua frase non è altro che l'iperbole d'un retore. Comincio a conoscerla, la morte. Essa cela altri segreti ben più estranei alla nostra attuale condizione di uomini. E tuttavia questi misteri di assenza, di oblio parziale, sono così intricati e profondi che avvertiamo distintamente la sorgente chiara e quella oscura confluire chissà dove. Non mi è mai piaciuto guardare le persone che amavo mentre dormivano. Si riposavano di me, lo so bene, mi sfuggivano anche. E non c'è uomo che non provi vergogna del proprio viso, guasto dal sonno. Quante volte, levandomi alle prime ore del mattino per studiare o per leggere, ho riordinato con le mie mani quei guanciali spiegazzati, quelle coperte in disordine, testimonianze quasi turpi dei nostri incontri con il nulla, prove che ogni notte non siamo già più. Poco a poco, questa lettera cominciata per informarti dei progressi del mio male è diventata lo sfogo d'un uomo che non ha più l'energia necessaria per applicarsi a lungo agli affari dello Stato. La meditazione scritta d'un malato che dà udienza ai ricordi. Ora mi propongo ancor più. Ho concepito il progetto di raccontarti la mia vita. Come chiunque altro, io non dispongo che di 3 mezzi per valutare l'esistenza umana. Lo studio di se stessi è il metodo più difficile, il più insidioso, ma anche il più fecondo. L'osservazione degli uomini, i quali nella maggior parte dei casi s'adoperano per nasconderci i loro segreti o per farci credere di averne, e i libri, con i caratteristici errori di prospettiva che sorgono tra le righe. Ho letto più o meno tutto quel che è stato scritto dai nostri storici, dai nostri poeti, persino dai favolisti, benché questi ultimi siano considerati frivoli, e son loro debitore d'un numero di informazioni, forse, maggiore di quante ne abbia raccolte nelle esperienze pur tanto varie della mia stessa vita. La parola scritta m'ha insegnato ad ascoltare la voce umana pressa poco come gli atteggiamenti maestosi e immoti delle statue m'hanno insegnato ad apprezzare i gesti degli uomini. Viceversa, con l'andar del tempo la vita m'ha chiarito i libri. Mi troverei molto male in un mondo senza libri, ma non è lì che si trova la realtà, dato che non vi è per intero. L'osservazione diretta degli uomini è una norma ancora meno completa, limitata com'è nella maggior parte dei casi alle constatazioni piuttosto grette di cui la maldicenza umana si pasce. Quel che sappiamo sul conto degli altri è quasi tutto di seconda mano. Se per caso qualcuno si confida, non fa che perorare la sua causa. La sua apologia è già pronta. Se lo osserviamo, non è solo. Mi è stato rimproverato di leggere con piacere i rapporti della Polizia di Roma. Vi scopro continuamente di che stupire. Amici o sospetti, sconosciuti o familiari, questa gente mi sorprende. Le loro follie mi servono di scusante alle mie. Non mi stanco mai di paragonare la persona tutta vestita all'uomo tutto nudo. Ma questi rapporti ingenuamente circostanziati aumentano il fascio dei miei documenti e non mi danno l'ombra d'un aiuto per emettere un verdetto. Quanto all'osservazione di me stesso, mi ci costringo, non fosse altro che per entrare a far parte di questo individuo in compagnia del quale mi toccherà vivere fino all'ultimo giorno. Ma una familiarità che dura da quasi 60 anni comporta ancora parecchie probabilità di errore. Nel profondo, la mia conoscenza di me stesso è oscura, interiore, inespressa, segreta come una complicità. Dal punto di vista più impersonale, è gelida, tanto quanto le teorie che posso elaborare sui numeri. Mi valgo di quel po' di intelligenza che ho per esaminare più dall'alto, da lontano, la mia vita, che in tal modo diventa la vita di un altro. Ma questi due procedimenti della conoscenza di sé sono difficili ed esigono l'uno che ci si cali entro se stessi, l'altro che ci si ponga all'esterno. Per inerzia tendo, come tutti, a sostituirvi mezzi meramente consuetudinari. Un'idea della mia vita parzialmente modificata dall'idea che se ne forma il pubblico, giudizi belle fatti, cioè a dire mal fatti, come un modello già preparato sul quale un sarto maldestro adatti a fatica la nostra stoffa. Strumenti di valore ineguale, utensili più o meno logori, ma non ne possiedo altri. Me ne servo per foggiarmi alla meglio un'idea del mio destino d'uomo. Quando prendo in esame la mia vita, mi spaventa di trovarla informe. L'esistenza degli eroi, quella che ci raccontano, è semplice. Va diritta al suo scopo come una freccia. E gli uomini per lo più si compiacciono di riassumere la propria esistenza in una formula, talvolta un'ostentazione, talvolta una lamentela, quasi sempre una recriminazione. La memoria compiacente compone loro un'esistenza chiara, spiegabile. La mia vita ha contorni meno netti. Come spesso accade, la definisce con maggiore esattezza proprio quello che non sono stato. Buon soldato, non grande uomo di guerra. Amatore d'arte, non artista come credette d'essere Nerone alla sua morte. Capace di delitti, ma non carico di delitti. Si direbbe che il quadro dei miei giorni, come le regioni di montagna, si componga di materiali diversi agglomerati alla rinfusa. Vi ravviso la mia natura, già di per sé stessa composita, formata in parti uguali di cultura e d'istinto. Affiorano qua e là i graniti dell'inevitabile. Dappertutto le frane del caso. Mi studio di ripercorrere la mia esistenza per ravvisarvi un piano, per individuare una vena di piombo o d'oro. Il fluire d'un corso d'acqua sotterraneo, ma questo schema fittizio non è che un miraggio della memoria. Di tanto in tanto credo di riconoscere la fatalità di un incontro, in un presagio, in un determinato susseguirsi di avvenimenti, ma vi sono troppe vie che non conducono in alcun luogo, troppe cifre che a sommarle non danno alcun totale. In questa difformità, in questo disordine, percepisco la presenza di un individuo, ma si direbbe che sia stata sempre la forza delle circostanze a tracciarne il profilo, e le sue fattezze si confondono come quelle di un'immagine che si riflette nell'acqua. Io non sono di quelli che dicono che le loro azioni non gli assomigliano. Bisogna bene che le mie mi assomiglino, dato che esse costituiscono la sola misura dell'esser mio, il solo mezzo di cui dispongo per affidare me stesso alla memoria degli uomini e persino alla mia. Per esempio, nel momento in cui scrivo, mi sembra a malapena essenziale d'essere stato imperatore. D'altronde, i tre quarti della mia vita sfuggono a una definizione fornita dalle azioni. Il complesso delle mie velleità, dei miei desideri, persino dei miei progetti, resta vago ed evanescente quanto un fantasma. Il resto, la parte tangibile, più o meno autenticata dai fatti, si distingue poco più nettamente e gli avvenimenti si susseguono nel modo confuso dei sogni. Talora la mia vita mi appare banale al punto da non meritare, non dico di scriverla, ma neppure di ripensarvi a lungo, e non è affatto più importante neppure ai miei occhi di quella del primo che capita. Talora mi sembra unica e perciò appunto senza valore, inutile perché è impossibile adeguarla all'esperienza comune. Nulla vale a spiegarmela. I miei vizi, le mie virtù sono assolutamente insufficienti. Vi riesce di più la mia gioia, ma a intervalli senza continuità e soprattutto senza un serio motivo. Quando tutti i calcoli astrusi si dimostrano falsi, quando persino i filosofi non hanno più nulla da dirci, è scusabile volgersi verso il cicaleccio fortuito degli uccelli o verso il contrappeso remoto degli astri. Thank you.